Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti, ben ritrovati sulle frequenze della nostra web radio per una nuova meditazione, accompagnati dal Beato Bartolo Longo. Siamo giunti alla penultima meditazione tratta dal suo aureo libretto, si intitola San Giuseppe, padre tenerissimo dei suoi devoti. Io immediatamente, senza troppi preamboli, essendo un pochino corposa questa meditazione, passerei subito alla lettura, come sempre poi riprendendo qualche punto e evidenziando, commentando qualche punto di essa poi durante la seconda parte. San Giuseppe, padre tenerissimo dei suoi devoti. Leggiamo oggi e meditiamo con la più grande confidenza le belle pagine che Santa Teresa ci lasciò sul potere e la bontà di San Giuseppe verso i suoi devoti. E qui cita Santa Teresa d'Avila e virgolettato. Io, scrive la Santa, presi per avvocato e per protettore il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con la più grande istanza. Il suo soccorso si manifestò visibilmente. Questo tenero padre dell'anima mia, questo amatissimo protettore, si affrettò a trarmi dallo stato in cui il mio corpo languiva, come mi tolse dai pericoli più grandi e di altro genere che sovrastavano al mio onore e alla mia eterna salute. Per colmo di ventura egli mi esaurì sempre, oltre le mie preghiere e le mie speranze. Non mi ricordo di aver sinora domandato grazia che non me l'abbia ottenuta. Qual quadro presenterei ai vostri sguardi se mi fosse dato di riferire le grazie e insigni di cui Dio mi colmò e di pericoli tanto dell'anima quanto del corpo, dai quali fui liberata per mediazione di questo gran santo. L'Altissimo concede agli altri santi la grazia di soccorrerci soltanto in tale o in tal'altro bisogno, ma il glorioso San Giuseppe, lo so per esperienza, stende il suo potere sopra tutti. Vuole con ciò nostro Signore farci intendere che nello stesso modo con cui egli fu sottomesso a San Giuseppe su questa terra di esilio, riconoscendo in lui l'autorità di un padre, si compiace ancora nel cielo di fare la sua volontà con l'esaudire tutte le sue domande. Molte persone a cui avevo consigliato di raccomandarsi a questo incomparabile protettore, tale lo hanno anch'esse sperimentato. Quindi il numero delle anime che l'onoravano va sempre crescendo ed i felici successi della sua mediazione confermano ogni giorno la verità delle mie parole. Conoscendo oggi per lunga esperienza il meraviglioso potere di San Giuseppe presso Dio, vorrei persuadere tutti ad onorarlo con culto particolare. Sinora ho sempre veduto come le persone che hanno per lui una devozione vera, sostenuta dalle opere, progrediscono nella virtù, perché questo celeste protettore favorisce in modo meraviglioso il progresso spirituale delle anime che a lui si raccomandano. Da molti anni che nel giorno di una sua festa gli domando un favore particolare, non me l'ha mai negato. Se per qualche imperfezione la mia domanda si allontanava dalla mira della gloria divina, egli la raddrizzava in modo da farmene ridondare un bene maggiore. Se io avessi autorità di scrivere qual puro piacere io gusterei a raccontare minutamente le grazie di cui tante persone, sono, come io stessa, debitrici a questo gran santo. Mi basti il supplicare per l'amore di Dio quelli che non prestano fede alle mie parole di farne prova e vedranno quanto sia vantaggioso raccomandarsi a questo gran patriarca ed onorarlo in modo speciale. Le persone che praticano l'orazione mentale dovrebbero sempre amarlo con filiale tenerezza. Per me non so come si possa contemplare la regina degli angeli mentre spende le materne sue cure per Gesù bambino senza rendere grazie nel tempo stesso al casto suo sposo della perfetta sollecitudine con cui soccorreva la madre e il figlio. Coloro che non trovano chi insegni a fare orazione, prendano per maestro questo ammirabile santo e sotto la sua direzione vadano sicuri che non sbaglieranno la via. Ad esempio di Santa Teresa, qui è finita la citazione della Santa, nonostante tutte le umane miserie e imperfezioni, rivolgetevi con piena confidenza a San Giuseppe, o anime pie, domandate per la sua potente mediazione le grazie di cui avete bisogno, grazia di conservazione, grazia di rinnovamento spirituale, grazia di una buona e santa morte. Allorché i popoli stimolati dalla fame si rivolgevano al re d'Egitto per avere frumento, quel principe li inviava a Giuseppe, da lui stabilito dispensatore di tutte le ricchezze del suo regno. Anche al nostro San Giuseppe, suo primo ministro, Il Salvatore ci invia per ottenere più sicuramente, per sua interposizione, le grazie che ci sono necessarie. Ite ad Iosef. Ricorriamo a lui con la speranza di ottenere quanto chiederemo. Egli è il vero servo fedele e prudente, che il Signore stabilì custode e vigilante della sua famiglia. Egli è il padre che dobbiamo renderci favorevole per poter ottenere favori dal figlio. Egli è l'intendente di casa, il quale deve presentare le nostre suppliche e farle gradire al padrone. Egli è il migliore e il più caritatevole avvocato presso la sua sposa per patrocinare la nostra causa presso Gesù e riconciliarci con Lui e rimetterci nella sua grazia sino all'ultimo nostro respiro. Andate dunque a San Giuseppe affinché egli interceda per voi. Tutti i cristiani trovano nella vita di questo gran patriarca grandi motivi di confidenza. I nobili ed i ricchi devono considerare pregandolo che San Giuseppe è discendente dei re. I poveri che egli visse come loro nell'indigenza e che ha continuamente lavorato come un semplice artigiano. Le persone vergini che egli conservò in tutta la sua vita la più perfetta verginità e che fu prescelto da Dio per essere il custode e il protettore della regina delle vergini. Le persone coniugate che egli fu a capo della più augusta famiglia, i fanciulli che egli fu padre putativo di Gesù, la sentinella della sua infanzia, i sacerdoti che egli ebbe sovente la somma ventura di portare Gesù fra le braccia ed offrì all'Eterno Padre le primizie del sangue del Salvatore nel giorno della circoncisione. Le persone religiose che egli santificò la sua solitudine di Nazareth con la pratica delle più perfette virtù e dialogando con Gesù e Maria. Finalmente le anime pie e fervorose devono considerare che mai un cuore, dopo il cuore di Maria, amò Gesù con maggiore ardore e tenerezza. Sì, ogni ceto, ogni grado, ogni classe, ogni condizione, ogni ordine di persone a lui ricorre. A San Giuseppe, scrisse San Bernardo, fu dato di difendere, favorire e proteggere di paterno affetto tutti coloro che a lui ricorrono con pietà. Sancte Iosef, datum est omnes ad te pie confugentes defendere fovere et affectu paterno prosequi. Questa è un'invocazione che è la traduzione in latino di quello che abbiamo appena letto di San Bernardo, o San Giuseppe, e a te sta lodato che tutti coloro che in te confidano piamente, tu li difenda, e li favorisca e li protegga con affetto paterno. Ecco, quindi questo è il testo della meditazione di oggi, ripercorrendolo ora insieme brevemente in questo lasso di tempo che ci è rimasto. Allora, se vi ricordate, per chi segue, come dire, regolarmente questa rubrica che è ad appuntamento fisso, e quando facemmo le meditazioni sul più santo dei santi del padre Pegna, abbiamo incontrato una larga sezione dedicata al culto che i santi hanno tributato a San Giuseppe, e se ricordate un ampio spazio era stato dato a Santa Teresa. Santa Teresa d'Avila era devotissima di San Giuseppe e lei attribuisce in continuazione nei suoi testi, nei suoi libri, e addirittura la riforma del Carmelo e tutte le grazie che lei ha chiesto all'intercessione di questo santissimo santo, a cui dedicò non pochi monasteri riformati del Carmelo, e che comunque è tuttora, credo, a quanto ne so oggi, sommamente venerato e stimato in tutti i monasteri carmelitani. E il motivo per cui era così devoto è perché l'aveva testato sul campo, nel senso che le grazie richieste per l'intercessione di San Giuseppe le aveva ottenute. Ecco, è molto importante, gentilissimi ascoltatori, perché è una cosa che edifica anche noi. Cioè, uno dei motivi per cui Dio vuole che le grazie gli siano chieste, non è l'unico, ma è anche questo, è che se io chiedo una cosa determinata e specifica e poi quella cosa arriva, è ovvio che io ho un segno grosso che come dire, che Dio è buono, che quindi quella grazia che ho chiesto Dio me la dà. Ecco, perché noi, capite, siccome Dio non si vede, se io non chiedessi mai le grazie e dicessi semplicemente a Padre Eterno come del resto diciamo nel Padre nostro, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dammi tutto quello che è necessario, e che tra l'altro il Padre Eterno ce lo dà, però noi non avremmo mai, come dire, un minimo di coscienza e di percezione che realmente Dio ci vuole bene, che ci dà qualcosa di particolare, no? Quindi se io ricorro all'intercessione di un santo per chiedere una grazia specifica e quella grazia mi arriva, io capirò evidentemente che è grazie all'intercessione di quel santo che la grazia specifica è arrivata, capite, no? E quindi aumenterà la mia considerazione, il mio amore e anche la coscienza che ho di quanto sia potente il patrocino e l'intercessione di quel santo. Ecco, quindi, e Santa Teresa conclude le sue esortazioni dicendo: va bene, se non mi volete credere, fate la prova. Dice proprio semplicissimamente: fate la prova e verificate se non è vero quello che dico. Quindi chiedete grazie particolari a San Giuseppe. Ci sono tanti modi, si può fare in maniera, come dire, semplice e personale, anche con parole proprie. A volte il cielo è così buono da non chiedere chissà che o chissà che cosa. Oppure io a tante persone l'ho raccomandato, no? C'è il sacro manto da recitare per 30 giorni consecutivi che ottiene grandi grazie dall'intercessione di San Giuseppe, la corona delle sette gioie e dei sette dolori, che mi sembra che però debba essere recitata, adesso non vorrei dire una sciocchezza, poi casomai Antonio mi correggerà, mi pare che quella si recita per un anno consecutivo, se non ricordo male, per chiedere sempre grandi grazie. E si possono fare delle novene a San Giuseppe, quindi l'importante è che ci siano delle richieste di cose buone, ovviamente specifiche, da rivolgere al Signore attraverso la mediazione di San Giuseppe, nella certezza di fede che se quella cosa che chiedo non è di ostacolo alla mia salvezza, perché in quel caso Dio non la concede, quella grazia certamente arriverà, senza alcun dubbio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, quando voi commenta il Beato Bartolo Longo le espressioni di Santa Teresa, evidenzia due aspetti in particolare che vorrei con voi adesso riprendere. Primo, ripercorre, diciamo così, una tipologia che è quella del Giuseppe figlio di Giacobbe in Egitto, che tra l'altro anche la liturgia della Chiesa riprende, no? Io che celebro la messa anche il rito romano antico, ho riconosciuto nelle parole in italiano del Beato Bartolo Longo l'introito della messa votiva in onore di San Giuseppe: Fidelis servus et prudens, egli, dice, è il vero servo fedele e prudente che il Signore stabilì custode e vigilante della sua famiglia. Questo è proprio l'introito della messa votiva di San Giuseppe, no? E penso che conosciate la storia di San Giuseppe d'Egitto, no? San Giuseppe si era ritrovato in Egitto e per una serie rocambolesca di situazioni, è la classica figura tipologica di Cristo, viene venduto per andare in Egitto, quindi dovrebbe essere l'ultimo, e poi grazie alla sapienza e a tante altre cose, come dire, trova grazia presso il cuore del faraone che lo nomina, diciamo così, sovrintendente tutti quanti i suoi beni. E quando poi Israele si trova in carestia e devono andare in Egitto a chiedere il pane, paradossalmente proprio i fratelli di San Giuseppe, proprio quelli che l'avevano venduto, si ritrovano davanti a lui. Lui riconosce loro non riconoscono lui. Ecco, dopo alla fine c'è la scena, diciamo così, in cui San Giuseppe si manifesta, offre loro il perdono e loro si pentono, no? E quindi si capisce anche attraverso questa vicenda come Dio a volte veramente scrive tanto dritto sulle righe, tanto storte, perché attraverso un fatto disdicevole come la vendita come schiavo di un fratello aveva preparato, come dire, nella sua provvidenza il mezzo per sovvenire il suo popolo durante la carestia. Ecco, comunque vediamo quindi la figura di Giuseppe figlio di Giacobbe, che è, come dire, amministratore dei beni del faraone. Ecco, quindi San Giuseppe amministratore dei beni di Dio, d'accordo? Amministratore plenipotenziario, quindi gli ha dato primo ministro, lo chiamo, quindi piena fiducia. Ecco, ed è una, come dire, una gratificazione che il cielo ha voluto accordare a San Giuseppe, perché San Giuseppe ha svolto sulla terra in maniera egregia quel compito che la fiducia divina gli aveva dato di amministrare i suoi tesori preziosissimi, questo l'abbiamo visto tantissime volte, che erano appunto Gesù e la Madonna. Ecco, quindi questo è un pochino il fondamento dell'eccellenza, no, di San Giuseppe, tipologicamente, ripeto, prefigurato nella figura di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Anche questo nel rito antico della messa, nella messa votiva di San Giuseppe, come prima lettura, c'è l'episodio, c'è un rimando, diciamo così, alla figura biblica di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Infine, voglio dire due cose. Una, ho dimenticato di evidenziarla, detta da Santa Teresa, che molte persone non trovano chi gli insegni a fare l'orazione mentale. A me tante volte mi chiedono, l'orazione mentale è importantissima, almeno diciamo fatta nella forma semplice della meditazione, importantissima soprattutto per chi aspira a progredire un po' nella vita interiore, no? Diciamo che non si accontenta di rimanere, diciamo così, in un cristianesimo un po' mediocre, fermo all'osservanza, come dire, zoppicante dei 10 comandamenti, a qualche preghiera vocale detta qua e là, no? L'orazione mentale, che sarebbe la meditazione fatta bene, porta ad una grande crescita interiore, perché ci consente di assimilare meglio la dottrina delle cose di Dio. Perché non basta stare a leggere in continuazione, non basta neanche ascoltare la radio, adesso non voglio ascoltare la radio San Giuseppe, però capite, tra 5 minuti il suono della mia voce cessa, e chiaramente se uno poi non medita le cose che ha ascoltato, probabilmente tra qualche tempo avrà dimenticato tutto, quindi certamente Dio parla, ma la meditazione, come dire, la chiamavano i padri antichi la ruminatio, d'accordo? Come quando uno mastica, ingoia, perché poi quel cibo che ha ricevuto attraverso la manducazione, la digestione, diventi carne della nostra carne. Diciamo che questo, dal punto di vista spirituale, è la meditazione. Ci sono tanti schemi, tante tecniche, tante cose, no? Poi questa è una cosa veramente da verificare con il padre spirituale. Indubbiamente però, se una persona non si trova in condizione, chieda a San Giuseppe, perché per fare l'orazione mentale basta che uno abbia un buon testo di meditazione. Va bene il Vangelo, va bene l'Imitazione di Cristo, va bene la Filotea di San Francesco di Sal, va benissimo questo libretto che ha inviato Bartolo Longo, se uno vuole fare un mese di meditazione su San Giuseppe. Queste sono proprio concepite come piccole meditazioni, e dopo un tempo di lettura fa esattamente quello che sto facendo io con voi, in silenzio torna su quello che ha letto, ci pensa, ci riflette, coglie dei punti essenziali. Ecco, poi io mi fermo qui, ecco, la meditazione va oltre, perché poi dopo aver pensato si dialoga, c'è un dialogo, diciamo così, tra l'anima e Dio sulla base di quello che si è capito, diciamo così, meditando, e poi, questo è il cuore della meditazione, gli affetti. Gli affetti a volte anche fervorosi. Ieri nella messa di ieri c'era "Ti amo Signore mia forza", insomma, no? La meditazione dovrebbe infervorare un po' il nostro cuore. E poi il proposito, perché quello che abbiamo meditato, una cosa semplice, sia poi tradotto in un punto preciso su cui lavorare per progredire, per migliorarci, per togliere un difetto, per acquisire una virtù, eccetera eccetera, no? Ecco, San Giuseppe, dice Santa Teresa, è un ottimo maestro per chi volesse e cominciare a zampettare, come dire, a muovere i primi passi nella meditazione, e non sa da che parte cominciare. Basta una buona invocazione a San Giuseppe, mettersi, perché poi ricordate sempre che si impara a pregare pregando. Dopo, gli schemi e le cose sono certamente importanti, ma sono tutti quanti limitati, non bisogna mai rimanerne imprigionati, bisogna usarli fino a quando servono, no? L'ultimissima cosa, che purtroppo il tempo è volato, è Beato Bartolongo conclude con una splendida esortazione, magari poi quando avrete la registrazione potete risentirla, dove mostra come la poliedricità, diciamo così, della peculiarissima vocazione di San Giuseppe lo rende, come dire, vicino a tutti gli stati e le forme di vita concepibili, anche nobili e ricchi, perché era di discendenza regale, era della tribù di Giuda, ecco, San Giuseppe, quindi anche essendo povero di fatto era nobile, oggi diremmo, speriamo nessuno si scandalizza, era nobile di sangue, d'accordo? Ecco, certamente era vicino anche ai poveri, perché fece una vita modesta, alle vergini, figuriamoci, lui che è il purissimo, il castissimo, vivendo una verginità, una castità perfetta, da maschio, che è più difficile viverlo che non da donne, questo ricordiamolo sempre. Le persone sposate, lui è stato castissimo, ma è stato anche sposo e padre, e quindi è un ottimo esempio. I fanciulli e i ragazzi, ecco, perché lui ha avuto, come dire, è stato la sentinella dell'infanzia di Gesù, e i sacerdoti, perché i sacerdoti toccano Gesù Eucaristia, ma lui toccava con le sue mani le carni vive di Gesù, ed è stato lui a portarlo al Tempio per il primo sangue versato, il sangue della circoncisione, e infine i religiosi, ecco perché la vita nascosta in solitudine a Nazareth è immagine della vita consacrata, e ovviamente poi tutte quante le persone pie e fervorose, perché nessuno più di Giuseppe amò con tutto se stesso Maria e Gesù, e nell'amore a Maria e Gesù ci sono il segreto di ogni cammino di perfezione. Io mi fermo, siamo già andati un pochino oltre con i tempi a nostra disposizione, vi lascio la mia benedizione, vi do appuntamento, se credete, alla prossima settimana. Una piccola esortazione: il 31 ottobre abbiate la carità di stare lontani dalle celebrazioni di Halloween, noi facciamo Halloween, in molte parrocchie si fanno le feste dei santi, anche da queste parti, se non si fanno le feste dei santi statevene a casa e accendete sul davanzale un cero esorcizzato o almeno benedetto, niente zucche e niente partecipazioni a questi riti che non hanno nulla a che fare con il cristianesimo e molto a che fare con Satana e i suoi ministri. Ave Maria.